regole pratiche per costruire e mantenere buoni rapporti. Afferma il salmista: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Salmo 133, 1. Sono convinto che chi scrisse questo salmo non fosse un sognatore, anche perché caratterizzare colui che ha fede in Dio è proprio il realismo. Egli vede la vita nel suo aspetto concreto. Eppure, nonostante la comunione fraterna non sia esente da problemi, il salmista afferma che il vivere assieme tra i fratelli è piacevole e buono. Certo, non è tutto automatico né scontato, ma se la comunione fraterna è buona, termine con il quale intendiamo utile, conveniente, idonea, efficace, opportuna, vantaggiosa, allora vale la pena esaminare cosa occorre fare per avere un buon rapporto con il prossimo. Valutiamo prima alcune ragioni per cui i rapporti sono difficili, per poi trovare nella parola di Dio il rimedio. I rapporti sono difficili perché innanzitutto vi è 1. L'orgoglio. Noi non siamo divisi a causa di un disaccordo teologico, ma perché siamo troppo orgogliosi per imparare gli uni dagli altri. Lo stimare gli altri più di se stesso, a cui ci richiama la parola, ha questo significato. Non vuol dire che debbo stimare un contadino più bravo di me che sono un carpentiere, ma trovare in lui quelle qualità, in virtù delle quali è un bravo contadino. Ogni essere umano ha qualcosa di buono da insegnarmi, e se non sono presuntuoso, saprò dare correttamente il giusto merito, a chi spetta. Un'altra ragione che rende difficili i rapporti è 2. L'indipendenza. L'indipendenza è importante e indispensabile, altrimenti si rimarrebbe bambini per tutta la vita, ma può diventare una grande barriera per l'unità e nemica della comunità. Le persone indipendenti sono più occupate di ciò che loro vogliono piuttosto di quello di cui gli altri hanno bisogno. Le persone indipendenti non si preoccupano veramente dell'unità, ma di soddisfare i loro obiettivi. Un terzo nemico della creazione e mantenimento di un buon rapporto è 3. A durezza di cuore. Se pecchiamo contro qualcuno, non dobbiamo confessare solo a Dio il nostro peccato, perché se abbiamo una giusta relazione con Dio, dobbiamo averla con gli altri. Anzi, la relazione con Dio si misura proprio dalla relazione con il prossimo. Per prossimo non si intende ogni creatura umana, perché i giusti non possono andare d'accordo con gli ingiusti. Infine, vi è 4. L'Antico Testamento tivismo, il quale è un impedimento mortale per l'unità. L'unità si costruisce sulle relazioni e non sui ruoli, e per costruire delle relazioni occorrono tempo e volontà. L'unità deve essere coltivata sulla giustizia e annaffiata con tempi di comunione. Cosa fare allora per mantenere buoni rapporti con il prossimo? Innanzitutto, 1. Sbarazzarsi di uno spirito critico. Efesini 4:31. Vedere sempre il negativo è la caratteristica di alcuni, che non sono necessariamente cattivi né fannulloni. Uno spirito critico tende a demolire, anziché costruire, conduce il prossimo a non saper più cosa fare. Mentre uno spirito positivo, comprensivo, può rendere disponibile e migliore anche il più astruso degli uomini. Se vogliamo che gli uomini migliorino, dobbiamo trattarli come vorremmo che fossero. Del resto, Gesù non ha detto che tutti i comandamenti di Dio si possono racchiudere in uno solo, e cioè fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In seguito a questo atteggiamento bisogna 2. Dire la verità. Che bisogna dire la verità, siamo tutto d'accordo, perché vorremmo a nostra volta sempre la verità dal prossimo. Eppure, rimane la cosa più difficile da fare. Quando una persona cara è ammalata di tumore, tendiamo a non dirgli la verità, così come se si deve pagarne un prezzo per noi troppo alto, preferiamo dire una menzogna. Un episodio biblico e abbastanza noto è quello dell'apostolo Pietro, il quale, quando gli fu chiesto se conosceva Gesù e se ne era un discepolo, lo negò per 3 volte e rispose anche seccatamente, giurando: «Io non conosco quell'uomo». Una cosa, però, bisogna riconoscere a Pietro. Egli aveva mentito in un attimo di debolezza, come succede a ognuno di noi, meno. Ma il suo cammino era caratterizzato dalla profonda sincerità e schiettezza. Perciò un rapporto con il prossimo non va in frantumi solo per un attimo di debolezza, ma quando la relazione non ha come principio base la verità e la schiettezza. Proprio perché Pietro era un uomo sincero, in seguito Gesù lo riabilitò e gli diede il compito di essere il primo a annunziare il Vangelo, sia ai suoi connazionali, sia a coloro che non erano ebrei. In merito alla sincerità, non posso che simpatizzare con quanto ho letto da qualche parte, dal titolo C, e anche il dono del silenzio. Detesto gli uomini che proclamano: «Io sono sincero, dico quello che penso. Se una cosa non mi va, la grido in faccia a chiunque subito». Detesto questi uomini perché con stupida ipocrisia vogliono far passare per sincerità la loro maleducazione. Essere sinceri significa non mentire, ingannare, tradire. E questa è certo una virtù, ma litigare sempre con tutti, dire cose sgradevoli, offendere, significa ritenersi giudici infallibili del prossimo e riconoscere a se stessi il diritto di umiliare. E questa non è virtù, ma stolta presunzione. Gli uomini hanno il dono della parola, è vero, ma anche il dono del silenzio, che spesso vuol dire rispetto degli altri, comprensione, umiltà, riservatezza. Chi non ha questo rispetto, questa comprensione, abbia almeno il buon gusto di non proclamarsi virtuoso. Dal momento che si ritiene sincero, ammetta sinceramente di essere un villano e di meritare l'antipatia che gli altri, in silenzio ma duramente, provano per lui. Per mantenere dei buoni rapporti con il prossimo occorre anche 3. Dire elle a verità con amore. Anche questo aspetto è molto difficile da mettere in pratica. Perché, come ha detto qualcuno, in genere la gente civile non si impegna, e chi si impegna non è civile. Il che vuol dire che in genere non si ama, e chi ama, di solito, non si comporta come deve comportarsi. Se è vero che la legge senza l'amore diventa legalismo, è anche vero che l'amore senza la legge è debole e sentimentale. Non vi è certamente un impegno più grande che dire la verità nel modo e per lo scopo giusto. Perché parlare di giusto? Perché l'amore non può essere sempre solo un sentimento, ma un obiettivo, quello di voler amare Dio e il prossimo. I due grandi temi della verità e dell'amore sono spesso considerati come poli opposti, come due estremi fra cui scegliere, o la verità o l'amore. Ma così non è. Né deve essere, perché se tenuti in un dinamico equilibrio, sono i binari a condurre il treno della vita di un cristiano che vuole piacere a Dio. Così, non parlare con rabbia, con amarezza o in maniera sgarbata, non spingere il pedale su verità troppo spiacevoli, non trovare piacere nell'umiliare il prossimo, non scherzare troppo sui difetti degli altri, di non fare troppo umorismo fuori luogo perché può essere dannoso, per quanto a volte possa essere anche un buon lubrificante nelle situazioni di attrito, ma studiati di essere approvato anche dagli uomini, oltre che da Dio. Proprio per questo devi 4. Dire solo ciò che edifica. Questo non significa che devi essere sempre d'accordo, né che tu debba privarti di una tua volontà, ma preoccupati di parlare in modo che gli altri ricevano sempre un insegnamento, un incoraggiamento e un aiuto. Sono fin troppi coloro che sanno vedere le cose negative che distruggono, come sono fin troppi coloro che, dopo una chiacchierata, lasciano l'amaro in bocca. Se vuoi mantenere e costruire buoni rapporti, devi andare controcorrente, quella corrente che porta gli uomini a mentire, a parlare con un doppio senso, a parlare male degli altri, a essere tuo amico per essere nemico di un altro. Quando edifichi, non lo fai per interesse, altrimenti, prima o poi, chi ti ascolta lo capirà. e anche tu rientrerai nella categoria degli sleali. Cerca sempre il bene del prossimo, anche se nell'immediato potrebbe sembrare che tu faccia il contrario, ma un cuore conquistato con la massima sincerità è difficile perderlo. A mio figlio che mi chiese il perché gli parlassi di un suo comportamento che mi aveva ferito, risposi di non voler vedere crescere rancori nel mio cuore. Da allora la sua stima nei miei confronti è notevolmente aumentata. Per mantenere dei buoni rapporti con il prossimo occorre anche 5. Sopportare. La sopportazione nelle relazioni umane è inevitabile, proprio indispensabile. Perché nessuno di noi è perfetto, nessuno si comporta costantemente all'altezza della situazione, perciò manchiamo tutti in molte cose. E se io non sono perfetto per forza di cose, chi mi sta vicino mi deve sopportare. Lo so che non è bello essere coscienti di essere sopportati, ma questo è dovuto alla mia imperfezione e non al mio prossimo. Quando il prossimo vede in me un difetto incorreggibile, almeno apparentemente, non può fare altro che praticare quella virtù cristiana che si chiama amore, mediante la quale non può fare altro che sopportarmi. È vero che chi mi ama, dicendomi la verità, cerca di farmi comprendere il mio punto debole, ma quando vede che le sue parole cadono nel vuoto, la sopportazione è l'unico rimedio. Così, per mantenere dei buoni rapporti con il prossimo, occorre essere umili e umiliarsi. Quell'umiltà che accetta di essere sopportato, se non addirittura compatito. Si arriva ad essere compatiti se non si accettano le riprensioni del prossimo, il quale non può fare altro che assumere questo atteggiamento. Anche per questo argomento, la parola di Dio ci dà ordini ben precisi, quali non si discostano da quello che si è detto. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. E siate riconoscenti. Colossesi 3, 12-15. A non essere stato fin qui messo in evidenza, ma che Paolo ha invece sottolineato, è il perdono. Ma perdonare è possibile solo se si è sperimentato il perdono di Dio. Infatti Paolo dice di perdonare, come il Signore ci ha perdonati. Per questo, fino a qui, si è volutamente tralasciato di nominare il perdono, perché questo argomento è ovviamente rivolto solo ai cristiani, cioè a coloro che hanno accettato il perdono di Cristo. Perciò, in conclusione, le regole pratiche per costruire e mantenere dei buoni rapporti con il prossimo sono capovolte. Prima occorrerà realizzare il perdono di Dio. Quindi, diventerà un gioco da ragazzi. 1. Sbarazzarsi di uno spirito critico. 2. Dire le a verità. 3. Dire le a verità con amore. 4. Dire solo ciò che edifica. 5. Sopportare. Un gioco che vale la pena mettere in atto, perché tutti saremo giudicati da Cristo Gesù per come avremo perdonato. E non è poco. Dicembre 2008, Ellero.